Sere su mi con un po' di fai dai, tu raggi subito e bingero nai. Sere su mi con un po' di fai dai, tu raggi subito e bingero nai. Ma che, la salute perdere, e dai ma vai, giù bevi timmere. Ma che, la salute perdere, e dai ma vai, giù bevi timmere. Sera su picco nu poi farai, tu ci sono tu picco non hai. Sera su picco nu poi farai, tu ci sono tu picco non hai. Ma che, la salute perdere, e dai ma vai, tu bevi timmere. Ma che, la salute perdere, e dai ma vai. Sera su picco nu poi farai, tu ci subi tu bing lo nai. Sera su picco.